Patricio il Bianconiglio. Iniziamo questo viaggio, è un omaggio ai dipendenti di uno stato alla deriva, naufragato in acque scure, chiede aiuto ai patrioti che le volte al loro paese organizzano la ripresa. Alcuni fanno solo presenza, altri sono ottimi oratori, quasi tutti hanno dei segreti ed una piccola ambizione, arrivare ad occupare le poltrone del potere, permette un digestire appalti grana alla nazione. Dai, dai, dai, ed anche stasera arrivata in città la gente che grida, che protesterà, si scende in piazza e il mondo sarà senza voi. Indulto finanziario, porta a porse d'auto blu, spiagge e vendersi a chiunque, le inserzioni sono varie, trovano tempo per votare, chi per sé e chi per altri, l'importante è non sprecare l'occasione d'essere scaltri e vivono sotto protezione dell'autorità e garanti, l'immunità parlamentare, ecco tutto cancellato, ci sono brogli elettorali, spede nulla e prega avanti, da chi è di competenza, nessun reato è contestato e conducono la vita. Facciamo trasmissioni dai cortei con i votanti, discussioni in Parlamento e fanno un po' di gossip, due tre dichiarazioni e vengono poi ricoverati per affaticamento e sono un po' stressati dal troppo lavoro, onorano la causa insultandosi tra loro, ma quel che mi rattrista è che la fiducia data non verrà mai ripagata. Ed anche stasera è arrivata in città la gente che grida, che protesterà, si scende in piazza e il mondo sarà senza voi, senza di voi. Questa sera è arrivata in città la gente che grida, che protesterà, si scende in piazza ed il mondo sarà senza voi, senza neanche. Stasera è arrivata in città la gente che grida, che protesterà, si scende in piazza ed il mondo sarà senza voi.